verso smunto tirato, gli occhi chiusi ed assonnati. Le membra stanche, forse malate, e tanta voglia di dormire, riposare. Pensavo di aver raggiunto la tranquillità, credevo di aver raggiunto la felicità. Thank you. Sentimenti con la folle tua boria e non restar mai solo, piangeresti, sta attento, l'amore e l'amicizia le hai lasciati nel vento. Io l'amore che ho per la mia donna, Dio è l'amore che ho per la gente, Dio è l'amore che si dà per niente, Dio è la gioia che provo quando canto. Pace che trovo quando dormo, Dio tutto ciò che mi dà un nuovo giorno, Dio l'amore, l'amore, la gioia, la pace. Potendo preghiere, imparate a memoria, ho pianto e odiato la smania di storia, ho speso notti intere a cercare un perché, ma poi ho capito che... Dio l'amore che ho per la mia donna, Dio l'amore che ho per la gente, Dio l'amore che si dà per niente, Dio l'amore che si dà per niente. passare alla storia. Colpesti i sentimenti con la folle tua boria. E non restar mai solo, piangeresti, sta attento. Un amore e l'amicizia li hai lasciati nel vento. Dio è l'amore che ho per la mia donna. Dio è l'amore che ho per la gente. Dio è l'amore che si dà per niente. Dio è la gioia che provo quando canto. La pace che trovo quando dormo, Dio è tutto ciò che mi dà un nuovo giorno, Dio è l'amore, l'amore è la gioia, la pace. ho avuto il pensiero e non posso più pensare. Ma dentro qualcosa mi uccide ogni giorno, mi fa stare male se solo guardo intorno. Bassa, raggiungere la cima, e sono già sfinito e ancora a metà strada. Dov'è la giovinezza? Dov'è quel verde prato? Quel casolare bianco nel quale sono nato? Dove quel ruscello, le grida di un bambino che guardava per ore le pale di un mulino. Sta accadendo qualcosa dentro me, sta accadendo qualcosa dentro me. Thank you. andare lontano per vedere poi se tu cercheresti di me. Vorrei farti piangere, vorrei farti soffrire per vedere poi se mi chiederesti perché. Dirti con un'altra per vedere poi se piangeresti per me. Vorrei che qualcuno ti dicesse ti amo per vedere poi se mi diresti addio. Quando ho visto lei mi ha sorriso. non sapevo più cosa fare, io volevo correre da te. Ma lei mi ferma e mi dice cosa fai, non mi offri neanche un caffè, solo un caffè, un caffè. Mi prese per un braccio e ci sedemmo presso un tavolo. Mi chiese poi cosa fai da quando non sei più con me. Ma proprio in quel momento sì, sei arrivata tu e ci hai visti mentre lei mi stringeva la mano. Ti sei fermata a guardarci e poi sei scappata via lontano. E io ti sono corso dietro e ti ho preso per la mano e tu mi hai detto: cosa fai con me? Corri subito da lei, da lei. Ma lei per me non conta, lei non conta niente, niente. Ma lei per me non conta, lei non conta niente. Tu la vita mia sei tu. Ma lei mi ferma e mi dice cosa fai, non mi offri neanche un caffè, solo un caffè, un caffè, un caffè, solo un caffè, ma non conta niente, no! Thank you. Casa che brucia, grida qualcuno, è mezz'ora che chiama e non arriva nessuno. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto, comincia a crollare. La finestra si apre, lei che grida, le fiamme si vedono e lei che brucia, i capelli ormai non c'è più, il corpo vestito soltanto di fuoco, i capelli ormai non c'è più, il corpo vestito soltanto di fuoco, sta bruciando la casa di Bisley. Sta bruciando la casa di Bisley. Attenderanno in vano i ragazzi di lei, al custode domanderanno. Qualcuno piangerà, qualcuno sorriderà, qualcun altro dei fiori certamente le porterà. Qualcuno piangerà, qualcuno sorriderà, qualcun altro dei fiori certamente le porterà. Con la casa è bruciata, Miss Ray. Con la casa è bruciata, Miss Ray. Con la casa è bruciata, Miss Ray. passione, che senso ha? Te la senti come un marchio fuoco, ma nella vita devi stare al gioco. L'educazione, che senso ha? Davanti ad un potente, saper piegare la schiena è conveniente. L'educazione, che senso ha? Tu puoi sfogarti sempre con tua moglie, che tanto è abituata e non raccoglie. L'educazione, che senso ha? Piegati, scatta, se pensa di sempre di sì, sei un uomo. Piegati, scatta, se pensa di sempre di sì, sei un uomo. Thank you. il suo sangue. La mente viaggiava, nel suo sacco appena è un giocattolo, dato in pasto al suo pubblico, senza nessuna riserva, ma e ogni giorno è una storia, sì, e si vende anche l'anima per un po' di pubblicità. Il suo pubblico è avido, vuol sapere tutto ciò che fa, ma quando è solo si è venduto anche l'anima, non ha più niente per sé e ricorda gli applausi di quando lui era il re. Giocattolo, un giocattolo.